più stare con quell'altro, quell'altro sicuramente qualche parte spuria ce l'ha, Robe. Ma ti lascia prendere la gambe che se no spegne tutte le luci di ottavo, ma c'è anche quello. Gianni. Mi vedi, stavo mettendo la portante, non lo so se la passo. Gianni, un po' la passo. Ma tu, che avessi una portantona lì. A me io neanche lo sento, vi giuro che non lo sento neanche. Poi, cioè, proprio a me non mi crea problemi. Io sono attenuato e mi arrivate tutti e due a fondo scala. Frequentemente la testa di liquidi, c'è il manopolone grande, poi c'è la tastiera, puoi fare tutto, c'ha qualunque cosa, anche povero malattino o qualcosa, è rimasto ascoltando, non ecco, è lo gelbito che non te ne fai nulla, però per il resto c'ha tutto, c'ha il wattmetro, il modulometro, e cosa per le stazionarie, l'SQR, c'ha il, vabbè, tutte le bande AM, FM, bande laterali, e cosa cavolo c'ha, poi c'ha, puoi ascoltare due canali in contemporanea, dual watch, poi c'ha la scansione dei canali, cioè ti scegli i canali che vuoi tu e te le vai a scansione, per dire quali il 5, il 13, il 20 e te le fa andare in scansione a rotazione, c'ha tutto, ma non c'ha niente. Sì, anche questo c'ha un monopolo di grado, sembra quasi un HF. Esattamente quello lì, ne ho visto uno proprio ieri su internet, un baracchino che non conosco, della Superstar. Una cosa mai vista, ma vabbè, sembra un HF, più che un baracchino un HF, quello lì, allucinante, ma bello, grosso, una stazione basso, non l'avevo mai visto. Dove l'hai visto? Come? Dove? Su un coso, cosa cavolo stavo cercando? Stavo cercando roba di hi-fi e non so per quale motivo c'erano questi baracchini. C'è neanche uno che però non si capisce se è un HF, se c'è scritto apparato 27, ma a me mi sembra un HF. E a volte scrivono 17 megahertz e poi sono HF, capisco, non esanno i manquetti che si diventa. Ma guarda tutto che c'è qua, adesso ci vuole blu. Ma ci vuole la tariffa? Stava 48, bella! Ci vuole questa la 48, ci vuole. Piazza della 48, vai Salvatore. E quanto viene, quanto lo sta prendendo Gianni su eBay? No, mi pare che sia all'asta, mi pare che sia all'asta. C'è un pezzo di vendita, mi pare. Comunque prova a guardare, lo trovi, Intec stazione base, lo trovi. Ce ne sono anche altri. Poi c'è lo Schuller, roba che ti interessa. Se viene lo Schuller che sono dei microfoni che sono... E che era, ma escono meglio del TR più 3. Lo Schuller senza un più è meglio del TR più 3 perché è quello che c'ha capri 2 per intenderci. E molto lo vogliono quello Schuller. Non vanno, mi pare, la tariffa. Se riesco a arrivare fino a quando prendo lo stipendio me lo compro. Mancavano pochi giorni, però la vedi un po'. Oh Gianni, sì, eh. Lo Schuller c'era un amico nostro, un amico di Coso oppure di Natalino, c'era su apparati professionali, l'ha messo, però io ti posso dire, sui baracchini ho sentito due stessi apparati, col, cioè un apparato provando lo Schuller e il Tanner più 3, a me mi è piaciuto più il Tanner, poi naturalmente sono gusti, dipende anche dagli abbinamenti, su quell'apparato si adattava meglio il Tanner più 3, però lo Schuller aveva un ottimo microfono, l'SBS ce l'ho già io, no, non ne ho problemi, ma già ne ho diversi. Ho guardato io su un sito, siccome il Falchetto sta cercando i baracchini, ne ho trovato due, ho trovato, questo è veramente bello, un bel apparato, perché lo conosco pure, il Coast Excalibur, 200 canali, e con lo VV131 del frequenzimetro, a parte, lo sta mandando 300 euro, ma nuovo, nuovo, proprio non è all'asta, c'è un CV di fuori, di, mi pare della Reggio Emilia. Beh, una cosa dico, tutto strumenti queste, capisci a me? Non ho capito cosa detto. Tutto strumenti queste, non è sicuro manco lì quello che vuole. Ah vabbè, quello è un altro discorso, sì. Eppure c'è questo, il Petrus, la Fire Petrus, che sono molto simili al Colt, anche se il Colt è più bellino. Addirittura il Colt c'ha davanti il commutatore dell'antenna, lo sai, è bello per questo. Ma il Colt non è completo, non c'ha... Io li conosco gli apparecchi. Di qua c'è anche il Petrus 7, 9, qualche cosa, non me li ricordo. Comunque non c'ha frequenzimetro, se tu lo voti non ha frequenzimetro. Ma lui ci stava anche il frequenzimetro a parte, c'ha un frequenzimetro, infatti insieme al frequenzimetro, in abbinamento ti dà frequenzimetro e coso, e BV131 amplificatore. Però uno li può anche prendere separatamente, ma diciamo il frequenzimetro, se ce l'hai è meglio, ma già, se vai a un canale non è che ti la possibilità tanto, dai. Vabbè, ma è più completo, più bellino anche l'estetica, vuole la sua parte. Diciamo che il Colt Excalibur non è mai stato tutto apparecchio, è cromato invece che essere nero, ma è molto simile al Galaxy, sono tutte cose che hanno copiato dal Galaxy, da Lafayette, eccetera, eccetera, ma l'originale è il Galaxy di Saturn, non c'è poco da fare, gli altri escono come 90 anche se tu lo noti. E questo è secondo 11 mattinale e 21 il mandato laterale. Sì, sì, no, non so, sono tanti, ma io ho visto delle belle tazze in base allucinanti, cioè di vecchia generazione, ma tipo a quel dato, vabbè, quello è una cosa spettacolare, magari non avrà tutte le funzioni del Saturn, ecco, però esteticamente è da paura. Allora ti sono fatto riprendi. Infatti ricordo, Roberto, a parte effettivamente non lo capire come mai con nessuno. Io ho il mio vecchio Galaxy brutto, ce l'ho tanti anni, non lo cambio, mi ha abbinato con il Bravo Plus, l'estalerta Bravo Plus, ma è che non lo sto più accendendo, magari faccio anche male. Ma le volte che lo usavo mi ha dato sempre soddisfazione. E il brutto è uguale a Saturn, ecco, sono identici, solo che Saturn hanno messo un cassone più grande, gli hanno aggiunto delle cose, tipo l'Ecco, Roger Beat e altre fesserie, però la scheda base è la stessa. Questo non te lo so dire, io le patate non ce l'ho avuto, non l'ho mai avuto, ma in questo c'è Roger Beat, l'Ecco non ce l'ha, ma Roger Beat ce l'ha già dalla casa. Ciao Marta, ma non è che sono arrivati da te? Gli ho fatto due, se due gli ho fatto uno, e mi è rimasto ieri, mamma mia, non me lo fa ricordare, già, non me lo fa ricordare, e io quando, guarda, quando ho sento parli e me ne fa freddo, non ho più comprato niente e me da quella volta, mai più, bugia, una volta ho preso un HB23 che ce l'ho qua, perché è stato il mio primo apparato da ragazzo, quando avevo 16 anni, e l'ho voluto prendere per ricordarlo, ecco, ce l'ho comprato, ma è acceso neanche quello. Io stavo parlando Galaxy Saturn, e poi alla fine ce l'ho fatta a prendere. Io l'ho avuto, io ce l'ho da tanti anni, ho questo Galaxy, lo stesso ho comprato nuovo, gli ho abbinato dal primo momento questo il microfono Bravo Plus, solo che non uso quasi mai, è fermo qua, che è con la fiancata al tappa, dovrei accenderlo ogni tanto, perché metterlo in macchina è troppo grande, è un barrasone. In casa va bene, ma ho questo Q, quest'altro, e quindi uso direttamente quest'altro. Riprendi da lì. Ehi, là, sono arrivato, che devo provare un apparecchio. Sono quasi arrivato, riprendo da dentro, là. Infatti volevo dire a Gianni a Salvatore, ho detto perché non lo fate funzionare questo Saturn, ecco, quello nuovo che avevate preso. Io lo sto facendo funzionare, vabbè. Salvatore mi è rimasto sempre lo stomaco. Il mio c'è troppa ruggine, vabbè, c'è troppa ruggine, è arrivato tutto arrugginito, quindi non c'è niente da fare. Io di minimo da quello da che invece mi abbiamo tirato non è stato bene per un po' di tempo. Io stavolta solitamente non bestemmio, però quando sono andato all'escomposto, alla polizia postale, a fare la denuncia che a parte mia mi hanno detto che tanto ho fatto tutta la mappa, tanto lo sanno che prima o poi vanno a mettere le manette, ma sì quando loro riescono a fare la franca, fanno la vita una bambi, alberghi in prima categoria, viaggi ovunque, senza problemi. Che tanto parliamo noi? Però bestemmiare per dire una cosa, perché anche io bestemmi, ma neanche ci penso, non mi rovino l'anima per lui io, ma ci veda. Ma no, ti appartino però, perché ci siamo rimasti male, perché aspettavamo con tanta ansia, preso con tanti anche con sacrifici già, perché magari ci potevamo prendere qualche altra cosa con quei soldi. E infatti, meglio le regalavo a mio figlio. Che buttare via così, infatti mia moglie si è un po' incazzata, e toccavo le siete fatte fregare, così già, non è che la c'è un piccarrica di dinamica, troppo, cosa devi fare, c'è gentile anch'io. Io non ho bestemmiato, ho detto solo che si ripigliano tutti i mezzi dei contrari. Non è popolo, ti dovrebbe bestemmiare. Aspetta, ripeterò perché l'ho provato e ci avrebbe fatto vedere la moglie, lo attacco. Se funziona il microfono, non so se c'è la batteria, se sia, se funziona la batteria lo voglio provare, riprenderò bene. Ehi, ma la cosa che non mi ricordate è che a Gimmai puttimi pure a me, perché lo stavo prendendo pure io, te lo ricordi? Sì, giusto, perché stavamo, poi sai cos'è, stavamo invogliando altra gente, prendilo che va a fare, sì, a fare lì, vabbè, dai, sta bene, Robè, dai, riprendi un attimino, che prova ad attaccare l'altro. A me mi ha contattato Salvatore, Roberto, detto, ma sicuri siamo, sicuri. Sì, io non mi ricordo per quale motivo non l'ho preso, perché ero interessato a prenderlo, poi Salvatore mi ha detto, troppo in ritardo, avevate fatto già tutto il discorso, perché mi ha detto, guarda, adesso un muffin in scatola, avanti in magazzino, ci regala anche, cosa ti regalava già. Ecco, mica va più di vicino, vabbè, sarebbe capitato a chiunque, non ce la prende in vicino, però cacchio, un bastardo di merda, quello di proprio una persona, cacchio, non lo so, però infatti dovete stare attenti, la cosa vostra, quando vedete questi western, come si chiamano questi cosi, questi bonifici internazionali, quelli assolutamente evitare, infatti mai, io conosco altra gente che è stata fregata così, mai fare bonifici internazionali, perché un post qui, cosa del genere, alla fine riesci a rintracciarlo tanto qua in Italia, ma fare quei bonifici internazionali, Western Union, così si chiamavano, mamma mia, c'era un servizio sulle Iene l'anno scorso, proprio su questo tipo, che poi l'hanno beccato, che fregava la gente, c'è stato, non li posso fare, lo condannano, le hanno un mese di coso, di carcere, e lui niente, continuava a fare la pila in giro. Vabbè, che sono tutto attenuato, Salvato, ti ho sentito un po' più basso, aspetta, vai. C'è una bella che ha trovato, forse c'è la batteria a te. Sì, messa con te, ok, la prometto la batteria. Comunque, per quel poco che ho sentito, il segnale era molto forte e abbastanza chiaro. La batteria, la prima che non ha preso. Bisogna aver lasciato di scorta una, se ha fatto. Comunque, Robe. Non è la batteria. Ma dice che l'hanno detto un po' stretto con l'apparato, magari può essere anche la, non lo so, come hai detto tu, o può essere anche qualche altro componente pure. No, ci sono altri componenti. Tu hai capito un po' la roba, sta piacendo la parità. Ma non è qua vicino a me. Vabbè. Dimmi, Salvatore. Aspetta, là, no, adesso sta uscendo bene, sto usando un altro microfono, sta uscendo bene. No, ma se sei in fondo scala, Salvatore, buona radio. Allora, no, è la batteria, è perché ho staccato il microfono, ci ho messo, però le presentaci che avevi regalato tu, quello grigio. L'ho regalato io? Sì, che hai regalato tu, quello ZG. Come l'ho messo nel macco, Salvato? Ah, quello sì, che te l'ho portato in ufficio. Sì, quello lì, sto provando quello lì e quindi se stanno uscendo a scarica è proprio la batteria. Allora, va bene, sì. Apposta, però non sto usando quello, il Bravo Plus, sto usando quello è il ZG, l'M93. E io? Ma Robè, quel colore che va la tutta. Quando ti stavo dicendo, noi non siamo stati fregati da una singola persona, uno che noi siamo stati sprovveduti perché l'abbiamo chiamato al telefono, ci ha risposto, c'era un sito dove c'era il tipo di autotrasportatore che lo portava, le consegne che si facevano esatti giorni, eccetera, eccetera, numero di telefono, tutto uguale, l'ha fatto benissimo, avrebbe fregato chiunque, anche un esperto. Sì, no, cioè, non sto dicendo quello, io ci sarei cazzato lo stesso, però adesso, dopo che ho sentito queste storie dei modifici internazionali, Western Union, no, assolutamente sono da evitare, perché comunque non è quello di Luca, non c'entra niente Luca, il microfono di Luca ce l'ho io nella 48, Salvato, cosa è la cosa del microfono di Luca? Che è tutta? No, è quello che mi avevi dato tu, te lo ricordi quello grigio che c'aveva nel cursore, cioè l'M93, presente. Se su io non ne portavo dato, mi sembra un MD più 4 più 5, qualcosa, ma una volta non me ne ricordo, sinceramente, Salvatore. Vabbè. Sono io che ti ho fatto la domanda, ma qual è quello di Luca? E tu non mi hai risposto. Ma se lo dici io, no, non è che stavo chiedendo se era quello che ti aveva dato la carta. No, infatti volevo rispondere, stavo rispondendo a te, adesso io l'M93 di Luca ce l'ho ancora, io ne ho solo uno, di M93 non ne ho mai avuto altri. Io a Salvatore, se non mi sbaglio, siccome ne avevo tanti, me ne avevo preso, mi avevano mandato, a meno che non sia quello, lo sai qual è? Può essere quello che mi hanno dato con i baracchini, quando mi hanno dato quel baracchini che c'erano un paio di microfoni, ma era messo male come microfono, esteticamente, Salvatore. No, è nuovo, Robè. Ma lo ricordo, lo sai che non me ne ammetto. Siccome io a me avevo da idea, avevo preso. risolto, aspetta, non l'avevo comprata. Ah, il coso, l'SBE, il microfono, e questo qui poi aveva dato una faietta Hawaii, un altro microfono, un MD5 e altri due baracchini piccolini portatili. E più mi sembra che c'era, adesso non me lo ricordo, siccome è passato tanto tempo, proprio non me lo ricordo, forse un M93, ma anche non sia uno di quelli, però non era nuovo, se è quello che ti ho dato io, adesso non me lo ricordo, so quanto. Però l'MD93 di Luca ce l'ho io nuovo nuovo. Robert, ascolta, io sto dando, se ti interessa, un masterizzatore Philips CD, ti possono sia ascoltare che masterizzare, se interessa a qualcuno degli amici tuoi o cose che ti interessa, fammelo sapere, che lo scambio o per soldi, non lo so. No, io vabbè, ce l'ho già, non me addirittura ce l'ho nuovo dalla LG, mai usato, l'ho acquistato appena erano usciti i masterizzatori DVD per doppiare, non l'ho mai utilizzato una volta, ci credi, cioè, mai. Addirittura quest'estate mi hanno dato dei CD da sdoppiare, alla fine me l'ho fatto prestare a un'altra, ho chiesto, non mi metto neanche a perdere tempo a collegare, perché ce l'ho già tutto in un attaccato dietro insieme al televisore, tutto quanto, lo uso più che altro per vedere i DVD come un lettore DVD, non per masterizzare. È venuto il cognato mio fratello, ne aveva uno doppio di quelli che ne metti da due, cioè da una parte all'altra, e l'ho fatto da lui proprio per non darmi per dirti, però posso chiedere che marca è? Philips. Fatto le voci? Sì, io ci mettiamo d'accordo, non c'è problema. Io ce l'ho fermo, è l'uomo nuovo ma ce l'ho fermo, non lo uso io uso il computer per questa cosa, quindi ma adesso cazzo sono sceso, ripeto, quando l'ho comprato io costava una barca di soldi, mi sembra 449 euro, io ce l'ho 5 anni mi sembra, appena erano usciti quelli l'avevo comprato, io l'ho fregato la mia che molte volte mi compro le cose troppo presto, cacchio, proprio per avere le novità, per vederle eccetera eccetera, poi l'anno da voi da 400 lo paghi 150 euro. Meno di 50 euro per la seconda mano, io meno di 150 non lo do. No, perché c'ero con il pubblico dove messo lo stereo e mi occupa spazio, quindi vorrei mettere un bel amplificatore. Vabbè, poca prima c'era quel negozio, non solo musica, non so se lo conoscevi, però che si amplificatori Marant, infatti l'impianto vecchia era, come volevi, piatti tecnici, un amplificatore Marant, te lo facevi a piedi, rivedeva secondo me, non era tutta roba buona. Già lo so cosa qua chiuso, sta dicendo. Ehi, Natalino, se stai chiamando tu, sei fuori, non lo stai andando, siamo in FM. Oh già. Ehi. E c'è uno che vende queste cose così, in via 4 novembre, prima di Fusaro. Prima di Fusaro? Ma non la seconda mano, Non so se è la seconda mano, comunque c'ha proprio amplificatori, casse, specializzato in questa roba qua. Ho comprato le cuffie della Sennheiser, sono favolose, roba, devi sentire come si sentono i bassi con le cuffie, sono bellissime. Sì, stai dicendo lo sinfonista, fanno una qualche cosa di usato, ritira, comunque io avevo comprato degli altoparlanti, siamo molto amici con Stefano, e qualche volta può capitare che lui magari prende qualcuno un amplificatore nuovo, delle casse e permuta, ti può capitare magari col problema, a me mi è capitato un bel affare con dei diffusori, delle casse audio, cioè per auto, bellissime, infatti costava una marca di soldi, non dico regalate, ma quasi. Ma devi comprare altra roba, così, e dall'impermuta devi sempre prendere altra roba, a me non mi interessa nulla per il momento, devo sceglierlo io, se impiego lo scelgo, me lo guardo come mi piace a me. Ah già, lo sto cercando da giorni, io tempo fa, una settimana scorsa stavo guardando un sito, stavo cercando, siccome alla fine poi me lo sto riparando, io ho un grosso amplificatore, un finale, bello grosso, me lo sto riparando Massimiliano, e sto spendendo un po' di soldi, diciamo che me comprerei 3 o 4 con quei soldi di amplificatori, però mi interessa quello lì che è una cosa particolare, e sono entrato, stavo cercando delle caratteristiche di un apparato che mi interessava, di un amplificatore, e sono entrato in questo sito che non ho più trovato, una ditta di fuori, mi sembra tipo Audiomania, si chiama cosa del genere, tu dove vai, cosa c'aveva di amplificatori, lettori CD, di tutto, diffusori, ma presi da paura di marchi prestigiosi, mi sto parlando di roba giocata, di cose, apparecchi super professionali, presi da paura, infatti se l'avessi trovato prima di vedere quello che sto riparando io, con questo mi avrei comprato due di amplificatori, per quanto sto spendendo io, non sono più riuscito a trovare, c'era tutto l'elenco di tutti gli apparati usati che aveva già, ti sto dicendo, ma cose non giocattoli, stiamo parlando di cose che costavano migliaia di euro, per dire un amplificatore da 2000 euro lo trovavi a 300-400 euro, ma cose da paura. E ma tu devi fare roba, quando ti piace una cosa, devi salvarti sui preferiti come faccio io, lo salvo sui preferiti, poi quando lo voglio vado e me lo cerco. Già, lo faccio sempre, purtroppo quello era un sottomenu, sono entrato a cercare una cosa e poi c'era questo, ulteriore informazione entra su questo, sono entrato su questo perché ho trovato tante e non ci sono più riuscito a trovarlo. Lo sai quante volte ho messo motore di ricerca, apparati hi-fi usati oppure amplificatori usati, di miglia ne ho girato e non sono riuscito a trovarlo più. Guarda, mi dispiace tantissimo perché c'erano cose veramente interessanti, ma anche a prezzi bassi, cioè non parliamo di centinaia di euro, per dire, anche amplificatori, per dire, come hai detto tu, Marantz, diciamo di quelli compatti, di non troppo potenti, di trovabili a 90 euro, cose così, amplificatori della Denon, cioè di marchi non di grassissimo nome, però prezzi molto bassi. Poi se volevi cose di un certo livello, americane o cose del genere, c'erano anche quelli, però c'erano anche amplificatori, ce n'era uno, un prezzo allucinante, infatti me ne sto mangiando le mani. Avanti. Buonasera a tutti, Piacere, Fena. Van Roger. Raga, ciao, benvenuto, dai. Compagnia di Roberto Quadrato e di Salvatore Maestrale, vai per qui. Saluti a Salvatore, a Roberto e a tutti gli amici che sono qua. Ma tu? Dimmi Roberto. Ma tu poco fa eri che ti avevi trovato a parlare? Io? Infatti dicevo chi sei Antonio, io ho riuscito a capire Antonio, ma un segnalone fortissimo, infatti ci siamo anche spostati, per quello era talmente saturo, amplificato, non so che cavolo c'era, e si sentiva, sono riuscito a dire che Antonio, mi ha detto, sono Antonio, e ha fatto Antonio Bombolo e non mi rispondeva, ha detto se sei tu dai due colpi importanti, ha dato due colpi importanti, e poi non abbiamo più sentito, ma scherzava a tutti qui qua. Non è attivo, io so che... No, negativo Roberto, non lo so chi era. Bene, Omi, non sei tu perché ti ha schiacciato di brutto anche a te. Non era Antonio, no, non era Antonio, perché se Antonio ha avuto la Iusina lo conosco. Schiaccia vicino a casa tua, perché Antonio qua passa quando lo mette la portante, quindi vicino a casa tua Roberto. Adesso un attimino ti ha schiacciato anche a te, ha dato solo un colpettino però ti ha schiacciato. Vabbè, avanti Salvatore. Salutone Antonio. No, ma non poteva essere, cioè, tanto c'è anche il bip in questo. Io perlomeno ogni tanto sento il bip basso, poi schiacciare quello mi schiaccia. Qua neanche lo sento io, quindi è roba le parli tue, robe. In questo caso non ce l'aveva il bip, infatti me lo metteva e lo toglieva il bip. Infatti a me mi ha fatto venire il dubbio quando ho sentito il bip, ho detto, è strano. Sentito adesso. C'era il mite però, però proprio neanche si muove lo smitter, Rubè. Già, vista, cioè già, stavolta te ti schiaccia di brutto, non so con quanti volte stai uscendo o dove sia, se, vuole dire sia anche qua vicino, però distrugge a tutti, un po' già e un pochettino riesce a passare. Sì, io già lo passo, spettacolo passo, è che lo normale. Dai, adesso lui ci va a far scomodare e accendere quel tazzino già, ma non lo facciamo, non gliela diamo questa soddisfazione, lo facciamo godere stasera, dai. Io non so neanche chi sia questo qua. Deve accendere il bruciatore, cacchio, così si scalda anche la stanza a Salvatore. No, che ci sono le televisioni accese. Beh, più tardi, se ne ho voglia più tardi già entro. Io un giorno ho sentito, con quelle potenze che parli tu, l'ho sentito ad Alghero, uno di Alghero, Salvatore, figurati se attacchi tu, ed arrivava una bomba ad Alghero, figurati se tu attacchi con la vicinanza che abbiamo. No, che qui non sai cos'è, che lo faccio nei cavi delle televisioni, già, no, l'ho già provato, nel computer non posso neanche parlare, perché sentono a me, no, è più tardi casomai, se ne voglia più tardi, dopo che non c'è niente in televisione lo faccio. E Robè, hai provato tu da dove mandiamo i K a aggiustare? A fare che cosa? No, a chiedere se c'aveva roba usata, perché lui li ritira, No, io sto parlando di hi-fi, non sto parlando di apparati radioamatoriali, cioè non sto parlando di quello, di audio sto parlando. Ma lui fa anche audio, non l'hai visto nel biglietto da visita? No, non ci ho fatto caso. Ma se ne ha provato minimo una trentina di questi negozi di roba usata, più o meno tutti ce l'hanno la roba, però questo era bello perché c'aveva proprio le fotografie e tutto quanto, non c'era solo il nome dell'apparato, perché se non sei esperto magari non ti dice niente quando vai, c'era proprio l'elenco con le fotografie e il prezzo, poi c'era addirittura se pagavi 18 euro stava parlando di garanzia. Roberto, ti fai mai cantare dalle foto, perché poi si che se le scaricano da internet, ti mettono quella bella bella per far vedere la parte nuova e poi ti mandano un cantarlo. È già successo, capito? È già successo. No, non sto parlando, le fotografie tra l'altro non erano nuovissime d'uso, quegli amplificatori che interessavano a me si vedeva che erano usati anche un po', c'era un segno d'usura, un po' sporchini, erano no, proprio quello non lo puoi dire. C'era poi tra l'altro una ditta abbastanza grossa, non so se era di Bologna o di che cavolo era, c'era un negozio, non era una cosettina da niente, vendeva anche nuovo, infatti c'erano scritti apparati nuovi e c'erano le fotografie, e poi c'erano gli usati, c'era il mercatino dell'usato, c'era tutti questi apparati con le fotografie e tutto quanto, e c'era il prezzo dell'epoca, quanto lo vendevano, e poi il prezzo lui, c'era l'offerta, prezzo tale, erano, si vedevano che erano usati gli apparati, no? Ma poi c'era una marea di foto di davanti e di dietro, non credo che era una fregatura, poi se era una fregatura vabbè, si è presente che c'è il numero di telefono, c'è il negozio, c'è dove è, dove c'è un sacco di roba, mi sembrava un po' strano che ti... Io infatti telefonando, cioè tra l'altro te lo mandavano a contrassegno già, neanche a pagamento possibile, era un proprio negozio, e se volevi la garanzia di un anno ti davano, a dove aggiungere 18 euro, erano tutti apparati con la Holland, dice provati nel nostro laboratorio, se vuoi la garanzia ti diamo 18, devi aggiungere 18 euro, te lo spedivano contrassegno, per cui ti rubi, te lo provi e poi se non ti piace te glielo do. Avanti, rispondi tu, rispondo io, perché vabbè, se ti sono presente che noi abbiamo anche telefonato, vabbè, quello quasi che sia una cosa a parte, però poi abbiamo anche telefonato, ci ha risposto il tipo, Savato sbaglio. No, ne avevo parlato personalmente io, ma l'altro sul numero del telefonino, vabbè, proprio una cosa, dico, io perché non compro più sui beni, proprio perché ormai, cioè, non dei beni, non compro più niente, così, per dovevo vedere, dovevo toccarlo, vederlo, non mi fido più, vabbè. Salvatore, io ti dico una cosa, io quando un mese fa ho acquistato un apparato che mi interessa, un ricevitore, un sintonizzatore, ho telefonato a questa ditta, l'ho telefonato il mercoledì sera alle 6, l'ho visto, e l'ho telefonato e ho detto guarda mi interessa questo prezzo eccetera eccetera, l'ho telefonato, mi è arrivato il venerdì mattina, contrassegno, guarda una cosa allucinante, adesso se non ti va bene me lo rispedisci e ti restituisco i soldi, una ditta seria, purtroppo ci sono i truffati da tutte le parti, io il campo l'ho acquistato su internet, tieni presente, e quando il tipo mi ha detto ma tu sei sicuro ti vuoi fidare, io ho fatto, io sono una persona che mi voglio fidare, però ho detto stai attento che io posso venire anche a cercarti, gli ho detto, no, non ti preoccupare, e io ho acquistato con una spesa di diversi migliaia di euro, non era uno scherzo, eppure mi sono venuto a fidare, fino adesso mi è andata bene, però fare questi pagamenti con bonifici, quelli io sono sempre stato contrario, mai e mai ne farò. Ma tanto poi l'hai visto tu quando sei andato a prendere tua roba? Certo, ma io mi sono fidato delle fotografie che mi ha fatto vedere lui, ci ho parlato, gli ho detto controllamelo cosa ci ha detto, gli ho fatto, cioè ci siamo sentiti per telefono perché lui mi ha detto guarda io ci vado da un mese, non so quello, quell'altro non ne capisco niente, eccetera eccetera, gli ho detto controllami questo, poi stato lui al telefono mi rispondeva, apriva il cofano, mi diceva mi c'ha questo tipo di cosa, c'ha quest'altro eccetera eccetera, e mi sono voluto fidare, e lui addirittura mi ha detto ma ti stai fidando di me, non ci conosci, ha detto no, io mi sembra una persona seria, gli ho detto con la voce, poi ci siamo trovati e è caduto tranquillo. Oh signori, io interrompo, poi ci sentiamo dopo, che mi hanno chiamato, dai, ciao a tutti. Ciao Robert, ciao, avanti, Boli. Ciao Robert, ci sentiamo alle prossime, avanti Salvato. Ciao Robert, anch'io mi farò mangiare anch'io, che so, è l'offre, c'è un panino in tutta la giornata, quindi adesso vado e mi rifocino un po', beh ce la faccio più tardi, comunque sì è vero, bisogna avere anche fortuna già negli acquisti, noi siamo stati sfortunati, ma ce lo ricorderemo, questo lo racconteremo anche ai nostri nipoti magari già. Sì, Salvatore, ma io ho comprato roba di 5 anni, e beh, non era mai successo nulla, non ho mai avuto fregature, sempre roba bella, roba buona. E purtroppo c'è sempre il diavolo in mezzo, c'è sempre. E adesso sì, io sto acquistando, però acquisto solo dai nipoti, sono nuovo, almeno so che è nuovo, non c'è più di usurato, che si parte da una volta all'altra, acquisto solo nuovo, metto i soldi da parte, quando ce li ho me l'acquisto, se c'è un prezzo che mi piace, però almeno so che è nuovo, con la garanzia e tutto. Eia. La mia ascolti, sono col presidente. Benissimo, Natali, poco fa mi si è sembrato un po' fuori frequenza. E il tuo no? Non ero io, no. Cosa devo dire? Non ero io assolutamente. Ho acceso adesso perché c'era il fusibile rotto e non funzionava. La radio è buona, eh? Sì, sì, già è buona. Gara, ma amplificata, E non lo sai, insomma, sì, appena si sente l'amplificatore, ma non più tanto, ma stai in confronto a quelli che avevi prima, no. Sì, vabbè, guarda, adesso uno, due, tre. Io va meglio adesso, guarda tu come lo senti. Benissimo, benissimo, si sente che ha un nuovo apparato, è presente, ma sono anche quello. Io l'ho avuto per un mesetto, poi non funzionava bene, l'ho rimandato al negozio e mi hanno dato un altro apparato, mi hanno dato, perché sono stato sfortunato. Ma va controllato Adriano, me lo ricordo sempre. Ma va detto, no, rimandacelo indietro perché qua c'ha problemi finali ed era costoso ripararlo. Ok, già, io me ne vado a cenare, casomai ci sentiamo più tardi, ci si sente su questo canale. Un saluto circolare a tutti, a Antonio, vabbè Roberto, già andato via, a Natalino e a Gianni. Riprendi tu Gianni, corriti per me. Kappa, sono fatto da un carica batteria, allora quando lo farai, noi siamo qua, quando vuoi non c'è problema, ci fa sempre piacere, sono fatto. Lo sai benissimo. Meno male che adesso non si... Si amplifica. E arriva. Attento Gianni. Gianni. Oh. Gianni. Oh. Guarda un po' adesso com'è la radio. Sapere se sta amplificando, se no gli faccio quella modifica, vedo se compra un po' di più. Fagliela, già va bene, ma fagliela che può fare il break. Avanti il break. Quindi no, no, vabbè, no che c'è.